ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. 13ª puntata. Nei giorni seguenti le donne portavano il consolo e stavano a guardarmi finché l'avevo mangiato. Dicevano che nelle disgrazie bisogna nutrirsi perché il sangue si indebolisce. Poi andai in cerca di padre Epifani, presi anzi l'abitudine di salire spesso al convento. Facevo la lunga strada fra i muri degli orti e levavo dritto il collo in su verso l'altopiano, ove un bosco di ulivi circondava il convento. Se mi capitava di voltarmi, guardavo la mia casa, tanto piccina vista da lassù, finché Otranto scompariva agli occhi e l'aria si faceva più ventosa. La prima volta padre Epifani mi ricevette nell'orto del convento, ove era occupato a innaffiare le piante delle zucchine e dei pomodori. «C'è tanta siccità in questi giorni», disse. «Non piove, non piove, le zucchine hanno bisogno di acqua». La sua tonaca, che mandava odore di incenso, continuava a impigliarsi fra i rami bassi delle piante. «Sentite, padre», dissi, «io prendo acqua alla cisterna e voi innaffiate, va bene?» «Benissimo», rispose, «brava figlia». Lui innaffiava canterellando Ave Maria Stella e io andavo e venivo con il secchio. A un certo momento mi fermai, appoggiai il secchio in terra e mi sedetti su una pietra. «E ora che fai?» «Ora voglio raccontarvi la mia storia», dissi. «Ci sono ancora da bagnare i pomodori», rispose. «Su, da brava». Li bagnammo. Quando il lavoro fu finito, si sedette su una pietra vicino a me. C'era una bella arietta, nuvole bianche lievitavano alla maniera di pani dentro il cielo. «Come ti chiami?» chiese. «Idrusa». «Idrusa? Sai che vuol dire?» «Come che vuol dire?» «Vuol dire che assomiglia a una cavalla da corsa, grondante sudore». «E che? I nomi vogliono dire qualche cosa?» «Il tuo sì, è greco, come il mio». «E il vostro che significa?» «Oh Gesù mio», disse a mani congiunte, «significa chiaro, pieno di luce. Chissà come proprio a me, povero monaco. Di, sei sposata?» «Sono vedova». «Poverina, così giovane». «Non sono poverina per niente», dissi. «Sono piena di peccati. Li volete sentire?» «Tu», disse poco persuaso. Gli raccontai tutto. Aveva un'idea curiosa dei peccati. Diceva che quando uno di essi, grosso, aveva consumato un pezzo di anima, l'uomo poteva rifarlo quel pezzo, molto meglio di com'era al naturale, e che perciò Dio lasciava i peccati nel mondo. «Ma, secondo te», mi chiese, «perché hai offeso tuo marito?» «Non lo so, questo è il fatto. È stata una cosa così venuta d'improvviso». Lui toglieva dalla terra i suoi piedi sassolini e li buttava oltre il muro dell'orto. «Sono cose che succedono alle persone piene di fantasia», disse. «Sai, gli uomini di fantasia corrono sempre un grande pericolo a vivere». In quel momento io afferrai nervosa un sasso, fissai uno scorpione lontano sul muretto, presi la mira e lo colpii. «Hai una buona mira», lui disse. Poi disse: «Sai, avere dei periodi nella vita in cui si vive come si deve, a posto con l'anima e col corpo, è cosa che capita quasi a tutti. Ma vivere così l'intera vita, lì è il difficile». «E adesso, padre Epifanio, che devo fare?» «Vediamo un po'. Mi hai detto che ricami, che sai aggiustare reti. Bene, mettiti a ricamare e ad aggiustare reti». «Ma io non volevo dire questo», risposi nervosa. «Io non trovo scopo, ecco». Per tutta risposta, padre Epifani mi domandò dove si comperava a Otranto il cotone per aggiustare le reti, se lo facevano venire da Lecce o se arrivava per mare. Pure, da come mi guardò, vidi che aveva capito benissimo. Padre Epifani era di quelli che capivano sempre di che cosa uno stava parlando. Nel tempo che seguì alla morte di Antonio, presi abitudini nuove. Oltre a ricamare, aggiustavo le reti dei pescatori per guadagnarmi da vivere e quando avevo finito il lavoro me ne scendevo sola fra le dune di sabbia della Roca Matura. Sdraiata, le mani dietro il capo, i miei occhi risalivano controluce, si fermavano sul dritto e sul verso delle foglie d'ulivo, sospese sopra la mia testa fra un intrico di rami e di nuvole. Venne l'inverno, venne un'altra estate infuocata, non più un filo d'erba sulla costa, una distesa bianca di sabbia e sassi che la notte sotto la luna era un astro morto, o che fossi io pure un sasso bianco sotto la luna. Mia sorella diceva che mai ero stata tanto selvatica. Diceva: ce ne sono altre che perdono il marito in mare, chissà quante per tutte le coste d'Italia, e si rassegnano. Bisogna avere il senno di sapersi governare. Che mi significa questo stare a letto sulla sabbia, sotto il sole, come i fichi sui cannizzi? Uno deve fare quello che ha sempre fatto, e allora le cose a poco vanno a posto. Questo diceva, e non capiva, non poteva capire che io avevo una sola paura, quella di dimenticare Antonio. Quando facevamo l'amore, Antonio mi diceva: neanche dopo morto ti dimenticherò. E io ridevo. Mi sembravano parole, nemmeno nuove. La gente dice sempre che anche dopo morta continuerà a pensare quella cosa e ad amare quell'altra. Invece, mentre si è vivi, non succede così. Le cose nuove cacciano le vecchie. C'è poco posto dentro di noi. Emanuele, se lo avessi rivisto, che sarebbe successo se l'avessi rivisto? Fuori di me, dall'ira, mi voltavo e rivoltavo nella sabbia. Era inutile che stessi a pensare. Io perdevo sempre in quel lavoro del pensare e me ne andavo col capo rotto. Per esempio, un mattino d'agosto, da poco era passato l'anno del lutto stretto, mi alzai con una voglia improvvisa di fare un tuffo e una nuotata sott'acqua. Che devo dire? Mi tuffai, mentre la pelle era punta dal freddo dell'acqua e il naso dall'odore delle alghe. Cominciai a nuotare. Ogni tanto chiudevo gli occhi e andavo sott'acqua. L'acqua mi entrava in tutti gli angoli del corpo. Bevevo acqua che poi, tornata a galla, sputavo, spalancando gli occhi alla luce e buttando in aria le braccia. Scuotevo il capo. Mi pareva di tornare a galla da un anno passato in fondo al mare. Appresso, cominciai a sentirmi gravata di stare in casa e trovavo sempre occasione per uscire, per andare dove passeggiavano le dame con le vesti di broccato. La domenica, sentita la messa nella cattedrale e non più nella chiesa di San Francesco che distava pochi passi dalla mia casa, mi affidavo tutta la voglia di camminare passo passo lungo i palazzi fino alla piazzella dove le panche dei venditori ambulanti erano piene di ummili, di vasi di creta rossi e neri, di cavallini di creta e di lucerne d'ottone che brillavano al sole. Mi prendeva allora un'ansia fervida, simile a una speranza, e frugavo attorno con gli occhi senza sapere bene che cosa cercassi. Oppure, cambiata strada, mi avviavo verso le mura, dove le sentinelle passavano da una guardiola all'altra chiuse nell'armatura. Se incontravo un ufficiale spagnolo, il cuore mi si metteva a battere furioso. Uscita dalle mura, mi spingevo sino alla palude, dove il vento accarezzava in fascio le canne alte che piegavano e drizzavano a ritmo le cime. «Ti prenderai la malaria», diceva mia sorella. Oppure diceva: «E ora che fai? Perché esci sempre? Prima ti lamentavi perché non uscivo, ora perché esco?» «È che tu non hai mai la misura. Cosa fai adesso?» «Passeggio, guardo le novità». «Come le novità? Ti sei scordata che sei vedova e la vedova giovane non può stare sempre per la via? Stai attenta, perché prendi la nominanza e ti infami». Sì, lo sapevo, ma le cose non andavano più allo stesso modo. I primi tempi, dopo la morte di Antonio, mi bastava guardare dentro casa una sedia ed ecco che Antonio si sedeva su quella sedia. Mi bastava guardare una porta e lui l'apriva. Adesso no. Era come se venisse in visita, chissà da dove, e non aspettasse molto ad andarsene. Un fatto però è sicuro: che solo quando uno è morto riusciamo a vederlo dentro di noi com'era veramente. Chissà, pensavo, forse avrei potuto amarlo e saremmo stati col tempo una coppia ben sortita. Ma adesso che tutto era finito era impossibile saperlo. «Perché non vai più da padre Epifani?» disse un giorno mia sorella. Non risposi. Potevo dirle che non ci andavo da quando m'era venuta una voglia furiosa di vedere Manuel, e che uno, quando è preso d'amore, il parlare più bello lo fa da solo, camminando per le strade. «Sei piena di capricci, tu», disse mia sorella. «Che cosa ci guadagni a stancarti presto di tutto?» Avvenne che un giorno uscì dal vicolo del Crismatico sulla Piazza Grande, dove i piccini dei pescatori correvano giocando, tutti nudi e pieni di strilli. La piazza è un luogo che una vedova attraversa in fretta, occhi bassi, ma quando sentì a pochi metri di distanza la voce di Manuel, che parlava con Spagnoli suoi pari, mi fermai di botto. Lo guardai. Lui pure mi aveva visto e mi stava venendo incontro. Era un vespro di sabato all'ora decima, e invece di voltarmi e andarmene gli dissi «Buon vespro!» E questo fu il principio della seconda parte della mia vita. Era ventoso il settembre di quell'anno. Ogni sera per la tramontana sbattevano le porte delle case e gli scuri delle finestrelle. Guardavo le ombre che passavano fino alle ore tarde ed ero un poco pazza dentro di me. «Cammina qualcuno?» dicevo ogni tanto. «Chi cammina?» Una notte trasalii. Lui era lì, davanti alla mia porta. Bastò un attimo perché la vita mi corresse sulla bocca. Ci baciammo fino a toglierci il fiato e subito Manuel mi rovesciò sul letto, buttandosi sopra di me e premendomi con passione contro il suo corpo. Restammo abbracciati tutta la notte. Ogni tanto lui riprendeva a baciarmi. Allora io ero inondata di felicità da morirne. Passarono molte notti consumate nell'amore. A volte Manuel era furioso negli abbracci, a volte col fiato mozzo diceva «Guardami, guardami in faccia». Ma io chiudevo sempre gli occhi in quei momenti senza parlare. Ogni tanto la notte si alzava dal letto e mi guardava al lume della lucerna. Allora era pieno di desiderio e insieme lontano, quasi esaltato per un verso e agghiacciato per un altro. Si sedeva sulla sponda del letto sopra il lenzuolo mentre le foglie del saccone scricchiolavano. Avrei voluto essere una signora per offrirgli il silenzio dei materassi di bambagia. La spalliera di ferro con i pomi d'ottone appariva doppiata al lume della lucerna. Davanti c'era la spalliera vera del letto con i pomi d'ottone lucidi e dietro, sul muro a calce, una sorta di grata su cui andava e veniva la testa di Manuel. Nelle notti tiepide dalla finestrella aperta entrava l'odore del mare, mentre sulle lenzuola disordinate cadeva il chiaro del cielo stellato. Seduto, accarezzando lentamente con una mano il mio petto, il mio ventre, parlava. Le prime volte parlava solo di me. Diceva che ero bellissima e bianca come le piume giovani del gabbiano. Non assomigliavo a nessuna donna di pescatori, ma a quei garofani selvatici e profumati delle colline. Diceva anche che ero intelligente, che con me si poteva parlare di qualunque faccenda perché io capivo e che questo non succedeva mai con le mie pari. Più avanti nel tempo mi parlava delle donne, tante, con cui era stato nei vari paesi del mondo. Diceva che c'era donna e donna, che una piaceva per un verso, una per tutto un altro. Sapeva a mente ogni cosa di tutte e me lo raccontava con divertimento, alla maniera come uno si ingegna a descrivere le case, le strade viste o i pranzi fatti durante un lungo viaggio. Questo mi dava molta meraviglia. Non di meno ero lieta, perché la cosa non si riferiva a me. «Ma tu?» domandai una volta. «Volevi bene a quelle?» Lui mi guardò fisso, disse «Certo, come a me?» Si mise a ridere. «No, non come a te». Lui abbassò gli occhi, ma fu pronto a rialzarli. Si passò una mano nei capelli con la grazia da signore che aveva nelle mosse. «Come fa caldo la notte in questo paese?» disse. Io avrei voluto continuare a parlare della cosa, ma non ebbi il coraggio. Stavamo abbracciati per lunghe ore, durante le quali, portata da Manuel su questa via nuova, perdevo ogni idea del mondo, mentre lui, che accarezzava con tanta poesia in ogni momento che volesse, era antiveduto e sapeva, per esempio, se era suonato il tocco, se era l'ora settima o la nona della notte. Una parte di Manuel, intatta, se ne stava sempre di per sé. Anche di questo io ero meravigliata. Con troppa velocità passarono i mesi nell'amore. Venne l'estate e da capo l'inverno con le mareggiate che passavano sopra il disegno delle rocce e davano alla notte l'aria di una catastrofe. Lo aspettavo avvolta nello scialle, accoccolata presso il braciere. Manuel veniva fedele agli incontri. Si sedeva con mosse pigre sotto le quali traspariva la vivacità dell'anima, come brace sotto la cenere. E io, guardandolo, pensavo che un fatto misterioso c'è in ogni creatura ed è il modo come tante cose diverse trovano fra loro armonia. Lo amavo e giudicavo la mia felicità un sempreverde. Quando giungeva in ritardo si scusava, diceva «c'erano i pescatori nella via», oppure diceva «temevo di essere veduto, non voglio che la gente parli». E io subito dimenticavo la lunga attesa presso il braciere, con le gambe arrotolate una nell'altra. Ogni tanto partiva per 10-15 giorni, diceva «adesso, mia cara, per un po' non ci vedremo». «Perché? Parti?» Lui mi metteva una mano sulla nuca, mi accarezzava il collo, i capelli, diceva «ogni tanto fa bene dividersi, allora a rivedersi si prova un grande piacere, tutto torna nuovo». Io non mi raccapacitavo in quel genere di calcolo. «Ma a te non spiace lasciarmi?» chiedevo. Lui sosteneva la domanda con gli occhi allegri. «Mi spiace e mi piace. Certe cose voi donne non le potete capire. Su questo fatto avete tutte la mente immatura». Era un anno e mezzo che ci incontravamo, io e Manuel, la notte, per la precisione 19 mesi, che erano passati sì in un baleno, ma nello stesso tempo mi parevano lunghi come tutta una vita. Una vita a cui mancava qualche cosa, però. Ecco, per esempio, Manuel parlava sempre di amore, ma non parlava mai come uno che amasse. Tutto il contrario di come era stato Antonio. Fu in una notte di gennaio, in un momento in cui il fuoco s'era spento nel braciere e io, infreddolita, sola, sentivo il vento fischiare sotto le porte. Fu in quella notte che per la prima volta pensai di aver cominciato con Manuel una vita che sarebbe finita chissà come. Tanti particolari su cui non m'ero mai fermata si trovarono pronti a venire tutti insieme alla memoria, pieni di insidie. Ora la mia vita mi assomigliava a uno di quei viottoli di campagna che fanno tanti lunghi giri fra un podere e l'altro, fra una proprietà e l'altra, prima di arrivare alla fine, e mentre li percorri ti immagini la via retta che, tagliando le campagne, ti porterebbe subito dove vuoi arrivare. Mi alzai di scatto, allontanandomi dal braciere, e uscii in cortile nel freddo della notte. Sotto il grande cielo pieno di stelle mi venne d'un tratto il pensiero che sarebbe stato meglio non aver mai conosciuto Manuel. L'amore era arrivato per me a quel punto in cui comincia a rendere infelici. L'indomani diedi la colpa di tutto al braciere spento, al freddo e alla solitudine della notte. Lavorai l'intera giornata attorno al bucato e la sera, pettinandomi con cura e cambiando la veste, mi preparai all'arrivo di Manuel. Chiusi gli occhi come spaventata quando sentii il passo. Li riapersi. Lui era già addosso a me e mi baciava con lascivia. «Tremi, che hai?» Io stavo ferma senza parole. «Senti un po', sembri una bambola spaventata. Ma come sei graziosa! Lo sai che sei bella, proprio bella!» Presi a farmi delle moine con la solita eleganza nelle mosse. Se fosse una donna, Manuel, pensai, sarebbe una grande civetta. «Vuoi sederti?» dissi, e nel prendere la sedia incespicai. Ero così stordita, Dio mio. Ma presto lui balzò in piedi e cominciò a scuotermi, togliendomi le vesti, morsicandomi le mammelle. «Al diavolo le vesti, drusa!» disse. «Vorrei trovarti già nuda!» Mi stese sul letto, si buttò su di me, coprendomi con tutto il suo corpo, infuriandosi tra i baci, mentre io, perduta, lo stringevo al petto. Allora l'amore vinse ancora una volta tutte le mie paure, come l'odore del calicantus sull'altopiano vince l'aria fredda dell'inverno. Ma non fu sempre così. Con l'aprirsi della stagione Manuel cominciò a venire a notte alta, quando l'orsa brillava dietro la torre del serpe. Sedutosi, cominciava a battere col polpastrello delle dita sul tavolo. «Dio santo!» diceva. «Non si sa che cosa fare in questo paese per passare il tempo, si muore di noia!» Sospirava, diceva. «Non c'è niente da fare. Inventatelo, caro Don Felice Sanzio Ierbo d'Aragona. Noi siamo qui per difendere le coste dai turchi. I turchi non vengono. Benissimo, mandateci a Lecce, a Brindisi, a organizzare qualcosa. C'è sempre qualcosa da organizzare a questo mondo». «Vorresti partire?» domandavo. «Figurati, mia cara, che da mesi non vedo altro che le stesse 20 o 30 facce. Non si sa più che cosa dire». Mi alzavo, andavo a prendere l'acqua dalla cisterna per preparargli una bevanda fresca. Quando il fondo della secchia faceva tonf sull'acqua, davo lo scatto alla corda perché la secchia si riempisse e cominciavo a tirarla su. «Mi amerà ancora», pensavo abbassando la fronte verso il fondo della cisterna. Certe sere Manuel non compariva. «È occupato», mi dicevo. «L'avranno trattenuto gli amici». A letto tenevo gli occhi spalancati nel buio e mi prendeva una curiosa smania che arrivasse la luce del mattino. In quei tempi cominciai a pensare che quando Manuel non veniva da me passasse le ore con un'altra donna, magari una dama del suo rango, sicché prendevo a immaginare la scena nei particolari. Lavorava in modo splendido la mia testa. Ormai la cosa per me era vera, come 2 più 2 fanno 4. Ero sicura che in qualche salone di un palazzo otrantino Manuel discorreva con la bella donna che dicevo io e a un certo punto, trascinatala un po' distante dagli altri ospiti, manteneva con lei sola una lunga conversazione in cui i due si fissavano negli occhi e si facevano estranei da tutto quello che li circondava. Andavano avanti magari un'ora a parlare come se l'argomento li interessasse da pazzi, ma in verità io sola penetravo nel fondo delle loro anime. Sapevo che tutto quel parlare era un modo per guardarsi negli occhi, piegare il collo verso l'altro sorridendo, sfiorarsi con le spalle, con le braccia e sentire il brivido improvviso della vicinanza. Era l'accordo segreto di un uomo e di una donna che si piacciono. Magari Emanuele parlava di una partita di caccia alle folaghe, le descriveva i cacciatori che avanzavano lentamente entro la palude, immersi fino al ginocchio nell'acqua. Intanto i suoi occhi dicevano: «Che spalle meravigliose tu hai, che occhi, continua a guardarmi così, continua, deliziosa femmina». E lei continuava, mentre pareva tutta preoccupata per le folaghe che, colpite a morte, galleggiavano dolcemente ad ali aperte come ninfee nella palude, ed esclamava con eccitazione: «Ma che spettacolo impressionante, deve essere bellissimo!» Io le invidiavo quella donna, che possedeva la grazia frivola delle belle signore e poteva conquistarsi Manuel così, a poco, nell'aria incantata di un fitto discorrere ad armi pari, come due cavalieri che danno prova di bravura a un torneo giocherellando con le punte delle spade. Tutto questo io non l'avevo avuto. Oppure mi sembrava di camminare alla periferia del Borgo Vecchio, dove c'erano 3 grossi e vecchi alberi di fico d'India circondati da un muretto su cui cresceva l'erba, e di vedere d'un tratto Manuel che teneva perdutamente fra le braccia la donna, stretta in un corpetto attillato con le maniche aperte, da cui uscivano tonde e bianche le braccia che cingevano il collo di Manuel. Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.